Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Nicoletti, ma perché non ti trovi il lavoro? Dai! Ma non hai un altro lavoro più interessante da fare nella vita? Ma Gianluca, ma perché vai a lavorare la mattina? Guarda, è incredibile, oh! Questa inattività mi sta distruggendo. Ho seguito il vostro generoso consiglio e mi sono cercato un lavoro vero. Ora faccio l'idraulico. Se avete problemi in casa... Io ci scherzavo. Un paio d'anni fa, mi ricordo, ci feci addirittura lo spot. Sì, perché ero arrivato al culmine della mia sopportazione. Sono 30 anni che faccio questo lavoro. Ci mantengo me, la mia famiglia, figli, nonne, zie, nipoti, insomma, ci vivacchio. E continuo ogni anno, sempre, puntualmente, a vedere persone che mi scrivono, che mi dicono, che mi ribadiscono il fatto che il mio non sia un lavoro. Vatti a trovare un lavoro serio, vogliamo vederti i calli sulle mani. Beh, questo per me è particolarmente fastidioso, perché me lo sento dire praticamente da un tempo illimitato. Mio padre, per cui l'unico vero lavoro era coltivare la terra. Ogni volta che i primi anni che ero approdato alla capitale e facevo la radio, che tornavo a casa, mi diceva: adesso, perché hai imparato a mettere due parole in fila, chi ti credi d'essere? Eh sì, perché non stavo lavorando, perché diciamo le ore, gli anni, i giorni, il tempo, le diottrie consumate in tutti questi anni non avevano senso, perché non faccio un lavoro, perché faccio un lavoro che consiste nell'usare il cervello invece che le mani. Io leggo, io parlo, io scrivo, io racconto, io guardo e riferisco, io costruisco pensiero. Questo non è un lavoro, questo assolutamente non viene considerato nel nostro paese un lavoro. Qual è il rovescio di questa medaglia? Che spessissimo c'è l'amico che ti chiama: senti, ti piacerebbe farmi una prefazione al mio libro? Sempre libri fetecchia, che uno, figuriamoci, sa, solo leggerli uno dovrebbe essere pagato, solo per tenerli in mano, per sfogliarli. E uno paziente dice: ti faccio la prefazione al libro. Comunque devi scrivere due paginette sono 120 righe, capito? Che comunque sia, uno deve farle bene, perché ci mette il suo nome sotto, e quindi non può buttare lì qualcosa tanto per farlo. Deve comunque metterci, diciamo, tanto, 2 ore solo per pensare, accendere il computer, prendere le etico per non vomitare con il libro in mano, e fa queste due paginette. Oppure: senti, ti dispiacerebbe venire a condurre questo dibattito? Oppure: ti dispiace, vieni da noi, guarda, un bel albergo, ti diamo, mangi quello che vuoi, un bel viaggio, c'è anche la figa se vuoi, figurati, però ci dovresti condurre un dibattito. Condurre un dibattito? Condurre un dibattito, comunque sia, devo studiare, devo pensare. E ammesso che uno studi e non pensi, comunque ho pensato e studiato tutta la vita per poter improvvisare qualsiasi discorso, qualsiasi argomento, e questo non vale, questo non ha senso. Beh, finalmente qualcuno si è deciso a vendicare questa mia, ma non soltanto mia, istanza. Ma non solo mia, ricordo Fabrizio Intonti, il mio valente collega, fa il fotografo. Fabrizio, mi fai una foto? Mi fai uno scatto? Scusa un attimo, che ci vuoi che ci metti? Fabrizio prende la macchina, la foto, la fa una volta, la fa due volte, la fa tre volte. Ma Fabrizio, facendo foto, ci si mantiene, oltre a fare il lavoro alla radio. Quindi perché la foto di Fabrizio deve essere uno scatto come se fosse fatto con lo smartphone, anche se lui lo facesse con lo smartphone? È un fotografo premiato in competizioni internazionali, è esposto in tutto il mondo. Una foto con lo smartphone di Intonti vale, comunque deve essere pagato. Lo chiamereste un vostro idraulico, un vostro elettricista, un vostro muratore? Fategli sturare il lavandino e poi ditegli: caro, per questa operazione non sono previsti soldi, non ti basta venire a casa mia. Beh, qualcuno genialmente ha tradotto questo concetto in una serie di video, 3 video che in questo momento sono l'hashtag che stanno spopolando in rete, li stanno ritwittando, rilanciando tutti. E questo concetto, che io ho impiegato 2 minuti e 40 per esprimere, è stato sinteticamente e fantasticamente sintetizzato in un termine: coglione no. Senta, io qui li ho liberato di scarichi. Faccio uno scarico di prova per vedere se funziona. Cazzo, lo sapevo, sei un grande. Ci facciamo una foto? Eh? Alza il chiave inglese. Io ho paura. Hashtag working class. Io avrei finito veramente. Uh-huh. Le faccio la ricevuta o le serve la fattura? Quale fattura, scusa? Oddio, ci siamo capiti male. No, pensavo di essere stato chiaro, insomma. Te lo dico onestamente, per questo progetto non c'è budget. Però mi è venuta un'idea. Ti offro una grande occasione di visibilità. Appena tu vai via, mi faccio una foto mentre sto cagando sulla tazza che tu hai appena sistemato e poi te la metto su Facebook, più Twitter, Instagram e Pinterest. Stefano De Marco, buongiorno. Ciao a tutti, buongiorno. Stefano De Marco è uno dei fondatori di Zero, zerovideo.net, collettivo che opera nella produzione video, pubblicità, industria musicale, web, eccetera. Assieme ai suoi colleghi ha deciso di diffondere questo messaggio, la cui sintesi è stata da me già lodata, ma come avete sentito solo un assaggio. Un antennista, un idraulico, un giardiniere vanno a casa dei soliti strafighettoni, case bellissime, loro che se la tirano con le mogli che vanno a fare zumba dance e che hanno sempre mille impegni, fanno il loro onesto lavoro, gli aggiustano l'antenna, gli potano il giardino, gli sturano la tazza. Questi cadono alle nuvole, come vuoi anche i soldi? Qua non c'è budget. Voi non so in quale città operiate, ma a Roma è normale. Io ho amiche rovinate che hanno chiuso i loro negozi perché venivano le signore del generone romano, le conduttrici televisive, le attricette prendendosi tonnellate di vestiti e poi cadendo alle nuvole quando gli mandano la fattura. Ma come? Vuoi anche che te li pago? Io me li metto in TV, te li faccio vedere. Come vi è venuta l'idea? Ma guarda, l'idea parte assolutamente da una necessità nostra, mia, di Niccolò e Alessandro, gli altri due ragazzi di Zero, a dar voce a, diciamo, quello che ci sentivamo dire in continuazione lavorando. Hai capito che io che ho 60 anni me lo sento dire da 30 anni, non è che nasce adesso. Ecco, probabilmente per quello che sono 4 giorni che ci chiamano emittenti, giornali, radio, perché evidentemente... non è così solo per noi . E probabilmente è un dato di fatto anche per mestieri che in realtà sono considerati effettivamente mestieri. Ecco, fammi un esempio di quando ti pigliano per coglione, ti chiedono qualcosa, vieni con la tua telecamerina, visto tanto bravo, a farmi il battesimo della bambina, la comunione della nipotina, lo schiattamento della vecchia, questo ti chiedono? Ma sì, guarda, in realtà diciamo ultimamente, cioè, la frase per questo progetto non c'è budget è quella che va più di moda, perché purtroppo sappiamo tutti, con la crisi, con i problemi, con la pubblicità che non è più in crescita e non serve a nessuno, diciamo quello che il lavoro che svolgiamo è un divertimento e stare 14 ore davanti al computer, tanto ti diverti, è una dai, cosa che, no, che fa bene alla vita. Sì, esatto, tanto ti diverti. Niente. Senti, non c'è un altro pericolo, io te lo dico molto francamente, Stefano. Tu sai che essere creativo è fantastico, ma bisogna avere anche un mercato. Non c'è tanta gente che si mette l'etichetta creativo sulla testa e poi in realtà non ha un vero valore di mercato, quindi alla fine pagarla sarebbe un sovrappiù. Te lo dico come domanda perché devo abbracciare tutte le possibilità di questa cosa. C'è tanti venditori di fumo, è pieno il mondo in questo mondo di creatività, di venditori di fumo, cui un calcio nel sedere molte volte sarebbe la giusta con ricompensa per lavori mal fatti. Sì, guarda, cioè, la mia opinione personale è che hai ragione, sì, però sicuramente è una questione che, diciamo, si allarga è estesa a tutti i campi, a tutti i mestieri, a tutti i lavori. C'è tanta gente che fa il suo lavoro in maniera eccellente, c'è tanta gente che in realtà il lavoro che vuole fare o che pretende di fare neanche lo sa fare. Sentiamo Alberto. Alberto, buongiorno. Buongiorno. Anche per te spesso per quel progetto non c'è budget, cosa fai? Bravissimo, io sono un designer e quindi spesso e volentieri magari ti invitano, dicono vieni a cena così mi fai vedere, magari mi disegni un po' la libreria. Sul tovagliolo mi fai il disegnino della libreria. Bravo. Oppure siccome mi occupo anche di ristrutturazioni un po' più grosse, tipo non so, un ristorante. Mi dai un'idea. Bravo, mi dia un'idea, gli dai l'idea, diceva vabbè sì, poi ci penso, poi ci passi, trovi che l'hanno fatto esattamente come gliele detto. La mia amica architetta si imbuffa lì perché una volta vennero degli amici a casa e mi fotografarono una libreria esclusiva che aveva fatto lei per rifarle, cioè come io ci ho faticato tanto. Bravo, a me mi capita, io spesso e volentieri mi invento delle cose e poi tranquillamente me le trovo riprodotte, capito, quasi in serie nelle cose. Perché non è che puoi brevettare, insomma, un disegno, un particolare, insomma. Arriva un buon falegnamino di paese e te la rifà identica. Bravo, io ho avuto dei falegnami che hanno avuto il disegno e poi l'hanno riprodotto n volte, capito, senza tranquillamente. Marco, buongiorno. Marco. Sì, ciao Gianluca. Quante ciao. Volte anche ciao. Per te non c'è stato budget? Scusate, mi sta telefonando il mio smartphone da polso e devo spegnere la suoneria. Prego, prego Marco. Me la sto tirando. Ma il budget in realtà il budget è l'eccezione, non è la regola. Comunque io faccio il musicista, suono in diversi gruppi e suoniamo per locali nella zona della Brianza dove abito io. E il budget sinceramente è l'eccezione. Fammi un esempio di chiamata che ti fanno lavorare e poi non ti pagano. Per fare cosa? Una festicciola in famiglia? In realtà è già chiaro subito dall'inizio, cioè quando io prendo contatto comunque o chi per me con i locali, si dà tra virgolette per scontato il fatto che il musicista chi suona, cioè non viene retribuito. Ti danno vitto, ti danno da mangiare, il piatto di spaghetti in mano. Ti offro da mangiare, però ok. Ma nemmeno un suonatore di fisarmonica nella metropolitana A di Roma si accontenta di un piatto di spaghetti, ti sputa in faccia. Esatto, cioè il discorso appunto è questo, che non dico, cioè, bisogna arrivare a volte anche a litigare, a dire ok, almeno un piccolo rimborso spese, qualcosa, cioè la benzina, perché comunque... Interrompo perché devo dare la linea al traffico. La domanda è questa per quando riprendiamo tra un istante la trasmissione. Mi spiegate perché per l'idraulico, per il muratore, per il meccanico, per l'aggiustatore di tapparelle ci deve essere sempre il budget? Perché invece per qualcuno che lavora con il cervello sembra impossibile al nostro paese considerare il fatto che in fondo se lavoro col cervello, lavoro con le mani, lavoro con i pettorali, lavoro col pisello, lavoro con qualunque parte nel mio corpo, è giusto che per me ci sia un budget. A tra poco. Melog, cronache meridiane. Boh, niente, si è messa in testa il corso di cucina creativa al Pincio, 2,5 a settimana, capito? Con tutte queste cose, quella mica c'ha tempo, è stata guarda a te che t'aiurama, capito? Sì, comunque qua abbiamo finito. L'unica cosa, come le dicevo, la chiamata della domenica mattina verrà a costare. Perché volete tutti i soldi miei, eh? Senti, dal momento che pigli questo argomento te lo dico onestamente. Per questo progetto non c'è budget. Ma ho capito, io ti è stata l'occasione comunque di lavorare in un giardino di un certo tipo. È un'occasione per te, non lo capisci? Scusa, a te che vuoi fare una vita? Lo fa questo? È il giardiniere, lo fa, eh? È come lavoro, è il sogno tuo. Allora ricordatelo, ragazzo. Cioè, nella vita, per realizzare i sogni, c'è bisogno un po' di sacrifici. Un altro dei video che stanno spopolando in rete, fatti, realizzati e diffusi dai giovani del collettivo zerovideo.net, i giovani videomaker, stanchi di essere chiamati senza corrispettivo economico, hanno lanciato quest'idea, coglione no, tutto siamo meno che coglioni. Perché? Perché nel nostro paese si galleggia nell'idea che il lavoro creativo sia un lavoro che può essere gratuitamente distribuito. Mi stanno scrivendo un'infinità di sms, mi parlano gli architetti che vengono invitati a cena dagli amici nei casolari disastrati, sì, così mi dai un'idea per la ristrutturazione. Mi stanno scrivendo anche molti medici dicendo, sai, molte volte anche di noi si approfittano, mi dai un'occhiatina alla gola. È vero, ho un senso di colpa profondo, anch'io che ho il mio neuropsichiatra personale Beppe Neri, chiamo spesso in trasmissione, ogni tanto dico, Beppe, sai, ho fatto questo sogno, ho questa visione, improvvisamente mi sono accorto che parlavo con un amico che non esisteva, e lui mi dice onestamente quello che ne pensa. Dovrei pagarlo, Beppe, sicuramente. Claudio, buongiorno. Sì, buongiorno. Ma volevo portare la mia opinione su alcune cose che ho sentito. Mi riferisco soprattutto a quel ragazzo di prima che si chiama Stefano, mi pare, quel ragazzo. Sì, signore, quello è un videomaker. L'autore di quel video che io ho visto, che è apprezzabile, a parte un po', diciamo, confezionato in maniera un pochino eccessiva, un po' ironica, non penso che succeda così realmente. No, perché, succede, perché, io dico io, guarda, no, sono 30 no, anni che faccio questo lavoro. Mi perdoni, ma la gente si incazza nera perché l'artigiano non è che sta lì e ti guarda e dice ok, si incazza e poi qualcuno fa anche altro, cioè o addisce le vie legali o fa quello che... Insomma, non è proprio così il mondo come lo racconto lui, ma soprattutto riflettevo sul fatto che non basta avere una bella idea. Guardi, lei non capisce il valore del paradosso, è chiaro, è giocato sul paradosso. L'idraulico è un povero idraulico giovane che rimane male, sovrastato. Lei immagina l'idraulico va a casa di un big della televisione italiana. E rimane, deve essere proprio uno con tante palle per dire prenderlo per il cravattino e buttarlo giù dal balcone. Rimangono intimiditi. È proprio questo il nodo. La società, le persone, i giovani di adesso non hanno le palle sostanzialmente. Lei dice l'idraulico per prendere la chiave inglese e sfasciargli la tazza. Ma sfasciargli la tazza, anche questo è un paradosso, e lei allora anche lei non capisce il valore del paradosso. Non è proprio quello. Diciamo che sono io la mia vita è incentrata sul paradosso di questo vivo. Per far valere le proprie ragioni in maniera corretta, ma in maniera decisa. Cioè, la gioventù al giorno d'oggi, io non sono più giovane, ahimè, ho 57 anni. Che mestiere fa lei, Claudio? Io sono odontotecnico, anzi sono imprenditore nel settore dentale, perché sono proprietario di alcuni studi dentistici, pur essendo odontotecnico non sono medico, ma sono proprietario di alcuni studi dentistici, perché ho fatto, penso di essere riuscito a far valere la mia competenza nel settore, anche invadendo in maniera legale però le competenze degli altri. Cioè, attenzione, perché tanti odontotecnici si spacciano per dentisti, non no, è di questa sì, ma io non, ho, non è il mio caso. Lei non è che mette le mani in bocca alle persone. Ma ci mancherebbe, no, io sono imprenditore, io sono proprietario insieme a soci, ma non è questo. Ma lei pensi se per paradosso si fosse sentito dire dal primo dentista che le mandava i calchi per fare una protesi, dai tanto ti diverti, dai che vuoi, è successo, dai. È successo, però io non mi sono arreso, non ho accettato, e dove è servito sono andato a fondo fino a ottenere in un modo, non con la violenza, non con le cose illegali, ma in un modo o nell'altro ottenere quello che mi doveva. Però Claudio, poi concludiamo, scusi Claudio, questi ragazzi, lei ha ragione, dice tirate fuori le palle, usano sistemi molto moderni, molto contemporanei, hanno fatto un video virale, oggi sono sulla bocca di tutti, comunque sono fatti una perfetta operazione di visibilità. Oggi per loro le cose forse andranno diversamente. Bruno Ballardini, buongiorno. Buongiorno a tutti. Amico Ballardini, esperto di marketing, comunicazione strategica, ha scritto vari libri, tra cui Gesù e i saldi di fine stagione, perché la Chiesa non vende di più, ma il suo libro classico è proprio Morte e la pubblicità. Un libro è stato anche ripubblicato nel 2012. Bruno, come la vedi questa storia antica e millenaria dei creativi che non devono essere pagati? E come vedi l'operazione dei giovani di Zero? Ma intanto faccio i complimenti al gruppo, perché gli spottini sono molto, molto carini, ben fatti. Sì, sono fatti da Dio, altro che fatti. Molto, molto bene, recitati molto bene, tutto quanto. Però il discorso è molto vecchio, cioè da quando io faccio questo mestiere, anzi non faccio più ormai, ma che si sentono sempre le stesse cose. Cioè, il problema è un problema culturale, che in Italia le idee non sono mai state valutate per il loro valore reale. Quindi, senti, è un problema solo nostro nazionale che il creativo non venga pagato? Sì, perché ho molti amici che sono andati all'estero e addirittura mi raccontano, a partire dalla crisi di questi ultimi anni, da Parigi mi dicevano: guarda, tu non ti rendi conto, qui ci danno anche l'anticipo, cioè ci pagano in anticipo per iniziare un progetto. Ecco, questa è una cosa che per noi è fantascienza, perché c'è un rispetto delle idee, hanno un valore. Ora, il discorso è che tutta questa campagna parte da Alfredo Acattino con il movimento giallo, li chiamano forconi gialli adesso, no? Per un falso problema, secondo me, è il riconoscimento giuridico delle idee. Questa è una cosa posta male, perché non è che i creativi sono speciali, sono dei lavoratori normali. Quando l'idea me l'hai pagata, poi ci fai quello che ti pare, la vedo così. Sì, ma il discorso è, inizialmente partiva dalla riforma del diritto d'autore, poi ci si sono aggregate varie forze e tutto il piagnisteo dei creativi. A me la parola creativo fa venire l'orticaria, non la sopporto più, perché noi non siamo diversi da altri lavoratori, cioè qualunque lavoratore porta un contributo deve essere pagato, è tutto regolato da un principio contenuto nell'articolo 36 della Costituzione, che il lavoro deve essere pagato. Poi bisogna trovare i modi legali, rendere, non so, per esempio la fattura o la prefattura un documento legale, per cui è come un contratto che va rispettato, ma non esiste che uno chiede una consulenza e poi non viene pagato. Cioè esiste, ma bisogna imparare a valutare quello come lavoro. Poi mi stanno pagato... scrivendo addirittura i farmacisti, entrano in farmacia, ci chiedono una consulenza e non ci pagano. Adesso non esageriamo, se va lì la vecchia che vuole supposte e gli dici pigliati le aspirine, non è che anche per questo, no, è un medico, no, sta lì. No, bisogna imparare anche a dare un valore giusto, e questo lo stabilisce il mercato, ma noi siamo in un mercato da stagflazione, siamo in deflazione, cioè non si muove nulla. E figuriamoci se queste problematiche vengono recepite da gente come Letta. Quante riunioni hai fatto nella vita che poi non hanno avuto nessun esito? Io di riunioni di preparazione di programmi ricordo, si arrivava fino allo studio prenotato, le truppe pronte, poi scomparivano tutti. E poi dopo naturalmente le tue idee avevano un senso. Vieni a fare una riunione, facciamo due chiacchiere, tu c'hai tante idee. Sì, tante idee. Beh, non è che mi sono venute da quando sono nato. Uno studia e lavora perché le idee vengano facilmente, o sbaglio? No, è così. Ma la cosa che mi scandalizza però è questo movimento dei creativi, tra virgolette, perché in questo calderone ci vogliono far rientrare tutti quanti. Anche i cadaveri, certo, è chiaro. Ma ecco, intanto ho il sospetto che parta da vecchie cariatidi della pubblicità anni 80 che erano abituate a fare le cicale, guadagnavano un sacco di soldi, adesso non riescono più a collocarsi da nessuna parte. Il mercato è cambiato, il mercato è fermo e tutto quanto, ma... non si può fare equiparare i ricercatori scientifici ai giornalisti, ai graficucci. Ma pensa tu, paradosso, prende più un autore che dice, che scrive alla Clerici, mettiamo la cipolla e facciamo il soffritto, che un ricercatore passa la vita in un laboratorio. Questo è il paradosso del nostro paese. La sigla ci porta via. Bruno, abbiamo detto abbastanza, ci sentiamo lunedì.